Il diario di Q. Viterbo, 10 agosto 1548. Pervenuto da Ferrara il verbale di interrogatorio di tal frate Lucifero, in merito alla diffusione dell'eresia tra la comunità dei cosiddetti pirati del Po, già piaga dei mercanti ferraresi, recentemente estirpata dal duca Ercole II d'Este. L'inquisito ha dato segni evidenti di pazzia, dichiarando di ignorare in quale anno di grazia stiamo vivendo e manifestando la convinzione che Leone X sia ancora papa. Accusato di aver introdotto rituali eretici e paganeggianti tra i fuorilegge delle paludi e in particolare di praticare il battesimo degli adulti, si è difeso sostenendo di aver ricevuto quella consegna da un missionario, tale frate Tiziano, inviatogli dall'abate di Pomposa. Costui gli avrebbe fatto dono del Librum de Nuova Doctrina, il beneficio di Cristo, imponendogli poi il secondo battesimo. Ho strappato la lettera. Gli inquisitori di Venezia non sono i netti servi del doge. Non sanno nemmeno cosa sia l'anabattismo. Non troverebbero il nostro missionario anabattista nemmeno se lo cercassero per 100 anni. Mai due volte nello stesso posto. Ogni segnalazione proviene da una località diversa e tutte hanno come epicentro Venezia. Quasi un disegno. Basta mettere insieme tutti i pezzi. Un solo uomo si aggira tra i territori della Serenissima e il Ferrarese, ribattezzando la gente, lasciando trapelare il nome che ha scelto. Quando l'Inquisizione arriva, è già scomparso nel nulla, ripiombato nei meandri della storia che lo ha vomitato. È abbastanza ovvio. Non si tratta di un pellegrinaggio. Non lo si può inseguire. Solo singole puntate, a colpo sicuro, battezza, lascia il proprio nome ben impresso nelle orecchie e scompare. Altrimenti, perché scegliersi un nome così bizzarro e famoso? 17 agosto 1548. Dalla confessione di frate Adalberto Rizzi, conosciuto anche come frate Pioppo, catturato sulla sponda ferrarese del Po in data 30 giugno 1548 e detenuto nelle carceri del Duca d'Este. Ed egli mi invitò a considerare che, avendo chiesto a un fanciullo di 5 anni chi fosse Gesù Cristo, gli era stato risposto una statua. E da qui deduceva che non era giusto somministrare la dottrina a menti incapaci di comprendere. Disse che la devozione verso le statue e i simulacri apriva la strada a una fede ignorante e inetta. Sì, affermò di chiamarsi Tiziano e di essere diretto a Roma. Il bambino e la statua. Brividi, brividi dentro la testa. Il bambino e la statua. Qualcosa di distante che si avvicina velocissimo, trascinato da un vento che spazza la memoria. Il bambino e la statua.